una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Riprendiamo con le trasmissioni del lunedì di questo inserto informaticoso-tecnicoso di Radio Wombat. Dopo una settimana di fatica, sostanzialmente abbiamo avuto dei problemi tecnici in una delle nostre regie, quella nello specifico da cui faccio la trasmissione. Quindi la settimana se n'è andata non a parlarvi di cose tecniche, ma a viverle. C'è stata una lunga settimana di impiantistica elettrica, ora i problemi sono rientrati. E quindi possiamo riprendere felici le nostre trasmissioncine. Per oggi ci accompagnerà la voce di Aretha Franklin, non so se l'avete riconosciuta. Ci ascoltiamo un album del 1970, Spirit in the Dark. E le notizie di quest'oggi sono in realtà soltanto tre. Solo una è particolarmente tecnicosa, le altre sono più di senso. Apriamo con un articolo che ci giunge da Internazionale, che abbiamo trovato su Internazionale, si intitola A che servono gli algoritmi ai tribunali statunitensi? Ed è la storia di una vicenda di un signore Eric Loomis, che nel 2013 è stato fermato mentre guidava un'automobile usata durante una sparatoria e per questo è stato arrestato, con l'accusa di non essersi voluto fermare al controllo della polizia. Il giudice gli ha dato una pena, sostanzialmente. E per dare questa pena si è basato principalmente sulla sua fedina penale, ma anche sul punteggio assegnato da un software chiamato Compass, che è sostanzialmente uno di quei software che si usano per fare l'analisi del rischio. Sono una categoria di software che forse qualcuno di voi ha presente, non per i tribunali, perché in Italia non li usiamo, ma sicuramente perché li usano le agenzie di assicurazioni quando devono calcolare in quale fascia metterli. Ci sono dei parametri, questi parametri vengono passati di solito a degli algoritmi che decidono in base a questo dove infilarvi. Ecco, negli Stati Uniti utilizzano questo software fatto da un'azienda privata chiamata Equivant, che in precedenza si chiamava North Point, e sostanzialmente questa azienda sviluppa questo algoritmo che tiene segreto, che in base a un questionario di alcune domande, questo qua è di 137, dà una valutazione del grado di rischio riferita alla vostra recidività o meno, cioè se siete dei criminali potenzialmente recidivi e pericolosi oppure no. Loomis ha fatto appello a questa sentenza, sostanzialmente dicendo che siccome questo algoritmo è brevettato e tenuto segreto dall'equivalent, il suo processo non poteva essere equo perché non si capiva in base a quali parametri lui era stato definito un criminale recidivo oppure no. Nell'articolo è interessante perché, se ve lo cercate, c'è anche un link, almeno nella sua versione online che ho io sotto mano, a una bozza di questo seminario, a un esempio. E le domande, che si leggono sono abbastanza interessanti perché tirano dentro un po' di tutto. Un po' di tutto, da che ne so, se siete diciamo quanto siete stabili da un punto di vista della residenza, cioè se vi muovete in continuazione o avete un'abitazione stabile, vi fanno diverse domande sulla vostra storia familiare, cioè se i vostri genitori sono separati, quanti anni avevate quando è avvenuto la separazione, quanti fratelli avete e dove siete nati. E tutta dove siete vissuti, se intorno a voi, diciamo, c'era un retroterra sociale di criminali oppure no, c'è tutta una serie di domande che tentano di caratterizzare in qualche modo la vostra storia personale, che ne so, se siete stati espulsi da scuola, se siete stati sospesi e poi. Boh, che cosa, come vi sentite, no? Se vi sentite annoiati, quanto vi sentite annoiati, quanto siete felici della vostra vita, è tutta una serie di domande di questo tipo. E in base a questo viene stilato un punteggio. Questo punteggio è stato appunto utilizzato dal giudice per arrivare alla sentenza, che poi è stata una condanna. Diciamo, una serie di ricercatori americani hanno avanzato il dubbio, che questo caso, diciamo, rientrasse tutta una serie di casistiche in cui il giudizio, quantomeno dubbio, è quantomeno dubbio che il giudizio possa essere stato equo oppure no. Nel senso che questo algoritmo in realtà, diciamo, lascia molti dubbi rispetto alla capacità di giudicare effettivamente questa cosa, ammettendo pure che questa cosa sia giudicabile, cioè che questa cosa abbia un senso. Questi ricercatori, in particolare se ne cita uno che si chiama Dressel e afferisce a qualche università americana, non so quale, comunque era ricercatori indipendenti. Il duo di ricercatori è Farid e Dressel, se qualcuno di voi è interessato. Io non li conosco, non so che facciano nella vita, sinceramente, però loro hanno fatto uno studio interessante, nel senso che hanno preso 400 volontari pescati attraverso un sito di crowdsourcing, quindi abbastanza a caso. E sostanzialmente hanno proposto una serie di casi postumi, cioè nel senso hanno proposto una serie di casi finiti in tribunale con alcuni dati sulle persone, diciamo, condannate, quindi persone di cui si conosceva la storia processuale, quindi si sapeva se avrebbero poi ancora reiterato nelle attività criminose oppure no. E sostanzialmente hanno visto che queste persone, che pur avevano molti meno dati di quelli dell'algoritmo Compass e molti meno ancora rispetto a quelli di un giudice, comunque nel 67%, 65% dei casi azzeccavano le stesse idee. Conclusioni dell'algoritmo Compass. Poi hanno fatto una prova ancora più semplice, nel senso che hanno dotato queste persone soltanto di due dati, cioè l'età dell'imputato e il numero delle condanne precedenti, e hanno visto che comunque ci si azzeccava uguale. Cioè, tendenzialmente sono arrivati alla semplice e conclusione che se sei giovane e hai molte condanne alle spalle, tendenzialmente sei ad alto rischio di recidività. E questa cosa è tendenzialmente ovvia, credo. E quindi tutta la loro, diciamo, la loro ricerca era però tesa non tanto a smontare l'algoritmo Compass di per sé, ma a rimettere in discussione diciamo, diciamo, il senso di questo tipo di ricerche, no? Nel senso che anche gli algoritmi, quelli più complicati, che sono i più complessi, che appunto questa azienda tiene nascosto e celato e non ci vuole dire come, diciamo, i calcoli matematici che ci stanno dietro, alla fine arrivano a delle conclusioni alle quali si può arrivare con veramente pochissime informazioni, tendenzialmente anche tirando la monetina o semplicemente utilizzando l'intuito. E questa è una cosa che è tipica degli algoritmi in qualche modo complessi. Cioè, spesso studiando algoritmi complessi si vede che sono veramente poco più precisi della loro versione ultra semplificata. E questo in qualche modo mette un attimino un dubbio, diciamo, sul senso di tutte queste, di queste aziende e in particolare di questi studi che tendono a rendere in qualche modo matematica e calcolabile quelle che sono poi boh, comportamenti legati più diciamo, all'essere umano, ecco. E quindi questo studio conclude un pochino che tutti questi studi, che poi affondano in qualche modo, credo, in quella, diciamo, in quell'ala positivista della criminologia e in quell'esigenza un po' tutta contemporanea, no? Di riuscire a rendere in qualche modo oh, scusate, di rendere in qualche modo predicibile, ecco, predicibile il comportamento umano per renderlo, per infilarlo dentro una serie di formule matematiche. Ecco, tutta questa roba di cui sostanzialmente si interessa la statistica, mettono un pochino il dubbio sul il senso di questa cosa. In particolare, loro ne fanno un discorso sostanzialmente da giuristi, boh, democratici, cioè da garantisti, dicendo in che modo questa roba ci rassicura sull'equità di un processo. Cioè, se un giudice che ha un sacco da lavorare, no? E semplicemente al posto di tenere in considerazione tutti gli elementi del caso, si basa sulla fedina penale e il risultato di Compass, e in base a questo fa la sentenza, possiamo considerare questo un giudizio giusto? E vabbè, la domanda è retorica, è evidente che la risposta è no, posto che ci interessino i giudizi giusti e quelli ingiusti. Però tant'è, io così ve lo riporto come storiella di questioni tecniche che poi, cioè, che poi vanno a impattare sulla vita quotidiana delle persone. Ora ci ascoltiamo un altro pochino di Aretha Franklin, intanto mi preparo con la seconda notiziola. Lasciamo la splendida voce di Aretha Franklin per tornare alla mia invece pessima. E ora parleremo invece di tecnologie dual use, un argomento abbastanza di nicchia ma interessante. Se ne è parlato un pochetto riferito alle questioni informatiche ai tempi della vicenda Hacking Team, cioè questa azienda italiana che produce malware e che poi vendeva a paesi sotto embargo, quindi anche ad esempio all'Egitto le ha vendute. E la cosa era uscita fuori, uno, quando diciamo, l'azienda era finita un po' sotto l'occhio del ciclone dei media, perché gli era stato sostanzialmente sottratto il loro archivio interno di posta ed erano stati violati da un gruppo di hacker che agivano sotto lo pseudonimo, cavolo, a ricordarselo, non me lo ricordo più. Cavolo, non mi ricordo lo pseudonimo. Vabbè, ve lo dico poi dopo, quando metto di nuovo il pezzettino musicale e vado. Ah, Phineas Fisher. Eccoli, Phineas Fisher, sotto lo pseudonimo di Phineas Fisher. E sostanzialmente un paio d'anni fa questo gruppo di hacker aveva violato questa azienda, sostanzialmente rilasciando tutti i dati che avevano sottratto, quindi una corposa quantità di mail, i software che loro vendevano e via dicendo. L'azienda quindi fu monitorata per un po' di tempo anche dai giornali e si parlò appunto di beni dual use perché da queste mail veniva fuori che loro avevano venduto anche a paesi sotto embargo, quindi a paesi a cui non si poteva vendere e il loro prodotto rientra appunto in questa categoria, cioè di cose che teoricamente sarebbero utilizzabili in applicazioni per così dire, civili. Poi il loro prodotto in particolare non si riferisce molto a questo, si riferisce più al fatto che loro vendono sostanzialmente dei sistemi di controllo, di spionaggio. Se però acquistati da delle forze dell'ordine, tipo quella italiana o quella di paesi amici, questo ed è tutto legittimo. Nel momento in cui li vendono a un paese con una dittatura, posto che tutto questo abbia un qualche senso, per me ne ha poco, però posto che appunto abbia senso distinguere tra questi tipi di governi, però questa cosa assume il termine dual use, cioè qualcosa che io posso usare con dei fini legittimi, ma che posso usare anche con dei fini meno legittimi. Diciamo, si capisce un pochino meglio la questione se la si riferisce ad esempio ad alcune materie proprio, diciamo, nel senso chimico del termine. Ad esempio il Teflon, che è un rivestimento antiaderente, no? Che ci avrete le padelle di Teflon e tutte queste cose qua, quello che si usa anche per inguainare la filettatura dei tubi dell'acqua, queste cose qui. Ecco, questo è un composto che sostanzialmente è a base di fluoro. E prima che venga trattato si presenta come una polvere bianca e può essere utilizzato per l'arricchimento dell'uranio nelle tecnologie bellico-militari. Nelle tecnologie civili no, si usa per fare padelle, eccetera, eccetera. E questo quindi è un bene sottoposto alle regole del dual use, nel senso che l'esportazione e l'importazione di queste cose, a seconda di chi siete e di perché lo comperate, potrebbe essere più o meno difficoltosa. Un'altra cosa che viene citata qua in questo articolo è ad esempio il Voltaren, che è un farmaco antinfiammatorio pessimo, non usatelo, e dentro c'ha il Diclofenac, che è una, diciamo, è la base con cui si fa il propellente per i missili. Quindi non lo so, la Corea, che è sempre lì che lancia, la Corea del Nord, che è sempre lì che lancia i missili, acquisterà un sacco di Voltaren. Boh, non lo so. E comunque, questo era per chiarirvi un po' cosa sono i beni dual use. Ebbene, questa roba qua nel campo dell'informatica, che è quello di cui noi parliamo di solito, si riferisce spesso appunto alle aziende che producono malware, software per lo spionaggio e cose di questo tipo, anche banalmente software di parental control, cioè quello che si mette per controllare cosa fanno i figlioletti, eccetera. E anche tutta questa roba qua potrebbe rientrare tranquillamente in beni dual use, perché un governo, appunto, come si diceva prima, dittatoriale, potrebbe utilizzarla appunto per spiare i propri concittadini, eccetera, eccetera. E la notizia sostanzialmente è che il 23 novembre scorso la Commissione per il Commercio Internazionale del Parlamento Europeo si è espressa con 34 voti a favore e uno contrario per una maggiore rigidità dei controlli su questo tipo di beni. E questa cosa qua alla fine a noi ci interessa, è giusto, però è interessante appunto rilevarne il problema, nel senso che anche il MISE ha questo problema in Italia, perché abbiamo un tot di aziende che producono beni dual use e loro ogni anno devono rilasciare delle licenze per poter vendere o no, esportare o no un certo prodotto. È forse interessante sapere quante sono. Si parla da 1500 a 1800 autorizzazioni all'anno e il giro di soldi che c'è dietro questa cosa qui è circa 1 miliardo di euro. Questo è interessante perché appunto c'è una dimensione etica che si scontra con un'esigenza economica, con insomma, è un'azienda, diciamo, è un tipo di commercio piuttosto fiorente che appunto vale circa 1 miliardo di euro. E la notizia sostanzialmente non è più, cioè non è niente più che questa. È buffo, nell'articolo ci sono alcuni richiami a delle vicende interessanti, tipo ad esempio in America. La Kaspersky Lab, che è una ditta che produce antivirus ed è russa, gli è stato ritirato diverse autorizzazioni a vendere da parte dell'amministrazione Trump perché sostanzialmente pensavano che, e pensano che la Kaspersky Lab in realtà in qualche modo spi le diciamo, gli enti governativi americani per ordine del Cremlino, del signor Putin. E quindi questa è una di queste. È appunto una di queste vicende interessanti, no? Dove appunto queste cose che sono dual use, cioè è un antivirus, ma chissà che altro potrebbe fare, ma diciamo, impattano sulla vita non tanto questa volta delle persone, ma sulla vita dei governi. Quindi con questo qua chiudiamo la seconda notiziola, torniamo alla Miss Aretha Franklin e poi ci prepariamo con l'ultima notiziola che chiude questo brevissimo inserto quest'oggi di Coccoli al Silicio, ma vedremo di fare meglio il prossimo lunedì. Anzi, in realtà c'ho ancora da darvi un appuntamento o due e ci sentiamo quindi tra un pochino. Parliamo ora, torniamo a parlare di Bitcoin, questa volta per riferire in realtà di un problema che c'è in un software che viene usato, si chiama Bitmessage, che viene utilizzato per scambiarsi messaggi cifrati peer-to-peer, cioè diciamo, da computer a computer, senza che in mezzo ci sia una struttura centralizzata. Ecco, questo software che viene utilizzato abbastanza diciamo, nel mondo, io non lo userei mai, però tendenzialmente viene parecchio utilizzato, e nella sua versione la 063 mi sembra, e aveva un problemino che non è molto meglio specificato, ma che rientrava in quella che si chiama remotely executable, cioè l'esecuzione remota di codice, cioè voi utilizzavate questo oggetto e attraverso un apposito bug era possibile eseguire del codice sulla vostra macchina. Si è ritrovato in giro dei malware che tentavano di sfruttare questa cosa sostanzialmente per rubare i wallet Bitcoin. Quindi ritorniamo di nuovo nel furto di Bitcoin, questa volta non alle grosse organizzazioni che ne hanno tante, ma direttamente sui vostri computer. Se avete dei Bitcoin e utilizzate questo Bitmessage, probabilmente non è una buona accoppiata. E quindi niente, ve lo volevo raccontare essenzialmente perché appunto rientrava in quei discorsi che abbiamo fatto le volte scorse sulla moneta elettronica, i bitcoin, eccetera, eccetera, di tutti i vari furti, megafurti, grandi rapine che si riferivano a questo circuito monetario. E in più era interessante anche perché appunto parlava di un bug abbastanza bruttarello, di un software che permette appunto utilizzandolo anche in maniera legittima, maliziosa, di riuscire a eseguire del codice sulla vostra macchina. Quindi se questa volta era il furto dei Bitcoin, cambiando sostanzialmente il codice che si va ad eseguire, potrebbe essere qualsiasi cosa, e quindi anche il controllo in qualche modo da remoto del vostro computer o quello che è, insomma. Questa notiziola apre il momento degli appuntamenti, anche nel senso che è l'unico appuntamento di cui volevo dare notizia, riferito al mondo Acaro, è che si è decisa la data del pre-hack meeting, che sarebbe l'incontro che va a organizzare poi l'hack meeting. Vero e proprio, che sarà probabilmente verso fine giugno, come sempre, in luogo ancora da definirsi. Si definirà appunto per bene a questo pre-hack. Il pre-hack sarà il 10 marzo in quel del Forte Prenestino. Il programma non è ancora ben preciso, probabilmente ci saranno una serie di seminari e poi l'assemblea in cui si discuterà appunto dell'organizzazione dell'hack meeting. Quindi, se qualcuno di voi è interessato, tenga le orecchie aperte e guardi sull'internet, guardi sulla lista Hack Meeting, che gli archivi sono pubblici, e si tenga insomma informato. L'altro appuntamento invece che vi volevo ribadire è che il 3 e il 4 marzo, cioè il weekend prima di quello che vi ho appena detto, ci sarà una 2 giorni dedicata a questa radio, a Radio Wombat, ma non solo, con il sabato sera una performance di un gruppo storico dell'industrial e cose simili italiano, chi c'è c'è, chi non c'è non ce n'è, è un gruppo, diciamo, un collettivo to torinese attivo penso da almeno 25 anni o più, che appunto ha fatto ha ideato uno spettacolo, una performance con tema proprio la radio. E che verrà appunto a portarla qui a Next Emerson sabato 3 marzo. Il giorno dopo poi si chiacchiererà invece di radio, in particolare si parlerà di radio in onde medie, ma anche della storia di alcune radio di movimento. In particolare ci saranno alcuni esponenti di Radio Onda Rossa da Roma, di Radio Onda d'Urto da Brescia, penso anche da Radio Blackout di Torino, poi la storia di una radio fiorentina, degli anni 70, e poi qualche altro intervento sparso. Il tutto sarà domenica pomeriggio alla Polveriera, più o meno a partire dalle 3 alle 4. Anche qui mantenete d'occhio il sito wombat.noblogs.org per avere il programma preciso che si sta definendo appunto per bene in queste settimane. E con questa notiziola e appuntamenti chiudiamo questa puntata stringata stringata di Coccoli al Silicio. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Vi lascio ancora un po' di Aretha Franklin e poi la nostra bobina.